segno ancora un sorsetto. Mi vesto, poi esco, c'è un party vicino, un locale che è aperto. Mi sento ubriaco e sono perfetto. Il tipo all'ingresso mi guarda perplesso. Io passo lo stesso, mi chiedi permesso. Io cerco lo shot, ti dico, ma da lo sai che io sono Eminem. Ho molto su e magari sei di me. Mi guardi e mi passi davanti, eppure ho la giacca e i capelli.